Allora, facciamo magari un passo indietro. Ricordiamo che noi stiamo lavorando su questo tema della rottura del gemellaggio come BDS Italia già da giugno del 2025. Abbiamo sentito molti consiglieri, ce ne sono alcuni particolarmente sensibili su questo tema e possiamo dire poi la sensibilità è aumentata via via che vedevamo l'orrore che arrivava da Gaza di questo sterminio fatto dall'esercito israeliano. E si è arrivati come punto saliente, dopo varie discussioni, vari consigli comunali, ad ottenere, grazie appunto a questi consiglieri di maggioranza, a ottobre del 2025 è stata votata l'ordine del giorno 807, in cui si diceva che negli stessi giorni, ricordiamo, era stata firmata la cosiddetta tregua tra Israele e Hamas, tregua che poi Israele non ha mai rispettato, ma nell'ordine del giorno di ottobre del 2025 si diceva in buona sostanza che il Comune di Milano riconosceva che era arrivato il momento di rompere il gemellaggio soltanto nel caso in cui ci fosse un significativo venir meno del rispetto degli impegni del piano di pace. Quindi era stata una specie di soluzione salomonica della giunta per dire sì, è vero, c'è un genocidio in atto, però è appena stata firmata una tregua pochi giorni prima del 20 ottobre e quindi il Comune di Milano si riserva di vedere come vanno le cose e poi eventualmente interromperà i rapporti istituzionali. Bene, nel frattempo noi abbiamo continuato ad insistere perché abbiamo visto tutti e sotto gli occhi che la tregua non è mai stata rispettata e sono ormai più di 700 le persone uccise solo a Gaza, oltre alla Cisgiordania e i massacri che continuano e oltre alla pena di morte assolutamente in ambito di apartheid che è stata votata dal governo israeliano a maggioranza soltanto per i prigionieri palestinesi. Quindi secondo noi ci sono ancora più motivi oggi rispetto all'ottobre del 2025 e se vogliamo anche rispetto a due anni fa per interrompere questo gemellaggio che non ha più senso di esistere. C'è stata una grande risposta da parte dei partiti sia a favore dell'interruzione del gemellaggio sia contro, in particolare a parte i consiglieri di opposizione anche Fiano del Partito Democratico si è detto contrario a questa cosa, giusto? Sì, purtroppo ci sono persone che continuano a riempirsi la bocca di parole vuote, probabilmente più per interessi politici propri che non veramente per un senso di politica con la P maiuscola. E quindi ci sono alcuni componenti del Partito Democratico che stanno remando contro, da quello che sappiamo stanno cercando di influenzare il sindaco Beppe Sala, a cui di fatto adesso dovrebbe spettare la decisione finale. Ci sono ancora consiglieri di maggioranza, vorrei nominare almeno Francesca Cucchiara dei Verdi ed altri che invece stanno insistendo affinché questo ordine del giorno già votato dal Consiglio Comunale venga trasformato in una decisione. Vorrei dire in questo senso che ci sarà una data cruciale che è probabilmente il 20 di aprile quando ci sarà Consiglio Comunale a Milano e ci stiamo preparando come società civile milanese, non solo il BDS che fa parte di questa rete trasversale ma molti altri movimenti della società civile saranno in piazza sotto Palazzo Marino il 20 per richiedere per l'appunto che venga rispettato un ordine del giorno già votato e che si arrivi ad una vera decisione. Aggiungo anche che non è soltanto una decisione, come dire, formale quella della rottura del gemellaggio a cui appunto Fiano, Fassino, altri che ben conosciamo si oppongono per motivi propri. Chiedere che il Comune di Milano interrompa le relazioni con Tel Aviv è molto di sostanza perché da nostre indagini, ma sono dati disponibili per tutti, il Comune ha anche molti interessi economici attraverso le sue partecipate, in particolare la metropolitana milanese che sta collaborando con Tel Aviv per la costruzione di una linea di metropolitana, A2A che è l'azienda partecipata energetica che ha svariati accordi di ricerca e sviluppo dove poi come sappiamo le applicazioni civili e militari in Israele si intrecciano sempre, quindi nulla è immune dal finire in mano ai militari e non ultimo gli interessi di SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e di Malpensa, su cui noi da tempo come BDS facciamo pressione affinché ci sia veramente un blocco delle spedizioni di armi e invece sappiamo che in vari casi sono state trovate ancora armi sia negli aeroporti che nei porti italiani e questo è assolutamente contrario alla alla legge. Quindi insistiamo e continueremo ad insistere per questa rottura del gemellaggio e di tutti gli interessi economici collegati. Vorrei nominare una cosa piuttosto triste ma necessaria, il fatto che sia mancato proprio ieri Carlo Monguzzi. Carlo Monguzzi era un rappresentante storico dei Verdi in Consiglio Comunale milanese, è mancato dopo una lunga malattia e vorrei ricordarlo perché Carlo si era battuto negli ultimi tempi, oltre che su tutte le sue battaglie storiche per il verde pubblico e contro l'inquinamento, ma ultimamente in particolare sulla situazione dei palestinesi, per i diritti dei palestinesi, per la fine dell'occupazione. Quindi direi è un momento per tutti per continuare questa battaglia anche in nome di Carlo Monguzzi.